Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Non partecipiamo al conflitto, dice la Russia, che invia uomini e navi in appoggio ad Assad in Siria. Sono solo strateghi, dice Hezbollah. È un errore, secondo il ministro degli esteri Gentiloni. La Danimarca ripristina i collegamenti ferroviari con la Germania dopo il blocco per evitare l'afflusso di profughi. Sono stati scoperti in Sudafrica i resti di una nuova specie di ominide, una scoperta per certi versi rivoluzionaria. Mescolava caratteristiche simili alle nostre con altre più primitive. In effetto giorno sentiremo l'unico ricercatore italiano, un antropologo, che ha partecipato a questa scoperta. Ci sarebbero 3 carabinieri sotto inchiesta nell'indagine bis sulla morte di Stefano Cucchi. Un ex vicecomandante di stazione avrebbe mentito. Ci sono state piogge torrenziali oggi in Giappone, inondazioni e frane, decine di persone sui tetti sono state salvate dagli elicotteri. Dopo la vittoria con la Germania, oggi pomeriggio l'Italbasket in campo con la Serbia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il consueto punto a metà giornata di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Anche oggi vi trasmettiamo in diretta da Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare ad Expo. In apertura andiamo all'estero, uno snodo importante, la guerra in Siria, snodo importante tanto in sé come situazione geopolitica, tanto quanto per la questione dei profughi. C'è un importante aggiornamento, la Russia ha deciso di intervenire piuttosto massicciamente a favore del regime di Bashar al-Assad, con qualche precisazione che è arrivata proprio poco fa. Il servizio. Le foto di militari russi in territorio siriano circolano su Twitter già da qualche giorno. Ieri, da parte dell'Iran, l'apertura del proprio spazio aereo a favore del Cremlino. Mosca si prepara a giocare sempre più sul campo al fianco di Assad, nel paese che ospita l'unica base navale russa al di fuori dei paesi ex sovietici. Al fianco del presidente siriano, ma non necessariamente per sostenerlo ad ogni costo. Secondo analisti internazionali, l'unico vero interesse di Putin è mantenere l'influenza e il controllo sulla costa siriana. Sta di fatto che all'aeroporto di Latakia sono già atterrati aerei russi con mezzi militari e apparecchiature sofisticate, materiale per costruire impianti e personale. Mosca minimizza facendo sapere che sta sì fornendo armi e ha inviato specialisti, ma questo non è mai stato un mistero. Il rafforzamento della presenza russa non ha mancato di mettere in allarme Stati Uniti e NATO. Secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg, il coinvolgimento di Mosca non aiuterebbe a risolvere il conflitto. Il segretario di Stato americano John Kerry ha recapitato i propri timori direttamente a Mosca in una conversazione telefonica con il ministro degli esteri russo Lavrov. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, poco fa sono arrivate le precisazioni da Mosca, che dice i nostri militari non partecipano al conflitto. Di tutto questo torneremo a parlare ulteriormente, più approfonditamente, più avanti nel corso di Effetto Giorno con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per fare un punto e capire cosa rappresenta tutto questo. Come si diceva, è una decisione importante quella di Mosca, che interviene in un territorio come la Siria, che è in piena guerra civile e dal quale viene un consistente afflusso di profughi. È il tema che stiamo trattando ampiamente in queste ore. C'è, dopo il discorso di ieri del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che aveva parlato di un'Europa disunita, un fatto che sembra ulteriormente dimostrato dalle azioni della Danimarca. Sono ripresi i collegamenti con i treni tra Danimarca e frontiera tedesca dopo che la polizia ne aveva ordinato la sospensione a causa del massiccio afflusso di migranti. Rimangono invece ancora fermi i traghetti che imbarcano molti treni tra Germania e Danimarca. I migranti, finora bloccati al confine, vogliono per lo più raggiungere la Svezia. Sorpreso dalla decisione di ieri di Copenaghen, il ministro degli esteri Gentiloni. Il problema, spiega, è ormai europeo, anche grazie all'iniziativa italiana e alle proposte del presidente della Commissione UE Juncker, e richiede una politica comune di asilo e rimpatri. E anche se è tornata la calma nel campo di raccolta al confine tra Ungheria e Serbia, dopo il record di arrivi di 5.000 migranti, l'esercito ungherese ha cominciato una serie di esercitazioni militari per preparare i propri effettivi ad una stretta sorveglianza della frontiera meridionale proprio con la Serbia. Nel frattempo, altre migliaia di migranti, incluse molte famiglie con bambini, si preparano ad entrare in Macedonia dalla Grecia. E si è sciolta, dopo momenti di forte tensione, la manifestazione di una quarantina di richiedenti asilo del Ghana, Mali, Senegal e Somalia che avevano bloccato il traffico in centro a Macerata per protestare contro i lunghi tempi d'attesa per l'asilo. Per rispondere alla crisi arriva infine dagli Stati Uniti la notizia che l'America sarebbe pronta ad aumentare il numero dei rifugiati accolti ogni anno nel paese, portando la quota da 70.000 a 75.000. 5.000 persone in più, dunque, provenienti da almeno 70 nazioni, Siria inclusa. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo su questo tema, sul tema dei profughi, anche se dopo, più avanti nel corso della trasmissione, torneremo ad approfondire la posizione della Danimarca e perché sia cambiata negli ultimi anni. Torniamo e restiamo sul tema dei profughi perché prosegue il viaggio di Radio 24 ai confini dell'Europa, là appunto dove i rifugiati arrivano o transitano. Siamo stati in Ungheria, siamo stati in Bulgaria e oggi con Gigi Donelli, inviato al confine tra Slovacchia e Ucraina, andiamo nella città slovacca di Kozice. Gigi, buongiorno. Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. Allora, che cosa puoi raccontarci da là? Ma innanzitutto posso raccontarvi che qui sono arrivato dopo 3 ore di treno, quindi di fatto una breve distanza proprio dalla stazione Keleti, dove ancora questa notte e questa mattina, prima dell'alba, migliaia di persone attendevano nei sotterranei, nella metropolitana, negli spazi appunto che gli sono stati concessi dopo che la stazione è stata liberata dalla polizia. Di fatto loro sono stati allontanati, dicevo, migliaia di persone, tantissime famiglie, un vero e proprio accampamento di attesa, in una situazione un po' surreale, in cui appunto accanto alla desiderio, al progetto di viaggio di queste persone, si è di fatto eretto un altro muro, in un certo senso, il muro in questo caso della polizia, che ha liberato tutta la stazione e la piazza antistante, però di fatto spostandoli in questi sotterranei, per cui migliaia di persone nelle gallerie in attesa di partire per la Germania, per l'Austria. Grazie al nostro Gigi Donelli per questo racconto. Torneremo anche a collegarci con te più avanti alle 13.35 per capire anche un po' meglio questa tratta, effettivamente come funzioni, chi passa da là. Resta alta intanto anche la polemica in Italia. In Europa serve una politica comune sull'asilo e sui rimpatri. Se non riusciremo ad andare oltre le regole di Dublino, rischiamo di perdere anche quelle di Schengen. Ne è convinto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che oggi definisce sorprendente il blocco dei treni deciso dalla Danimarca. Sull'immigrazione l'Italia sta dalla parte giusta, afferma il titolare della Farnesina, secondo il quale l'ondata migratoria rischia di travolgerci non per le sue dimensioni, ma per la reazione a catena che sta provocando negli gli stati per egoismo e scaricabarile. Quanto alle polemiche italiane, Gentiloni definisce totalmente illusorie le proposte, come quelle della Lega, di accogliere i migranti su piattaforme offshore. Proprio dal Carroccio, intanto, a sorpresa oggi Matteo Salvini dice di essere disposto ad ospitare un profugo nel suo appartamento, anche se è soltanto un bilocale. Chi scappa dalla guerra ha diritto all'asilo, spiega il leader leghista, il quale sottolinea però che la maggioranza di quelli che stiamo assistendo oggi non sono profughi ma migranti economici che, a suo giudizio, vanno invece rimandati nei loro paesi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al Giappone, dove le piogge torrenziali arrivate con il tifone Etao hanno provocato pesanti inondazioni e frane nella parte orientale del paese. Ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore da Tokyo, Stefano Carrera. Stefano, buongiorno, qual è la situazione? Sì, buongiorno. Qui a Tokyo, dopo 2 giorni di violente precipitazioni, la pioggia si è un po' calmata, ma nelle province del nord, soprattutto Tochigi e Ibaraki, è una situazione di vera emergenza. Il Giappone rivive oggi le sensazioni provate 4 anni e mezzo fa ai tempi dello tsunami, cioè proprio con case fragili, auto portate via dall'acqua, salvataggi in elicottero, gente in fila per l'acqua o ricoverata in scuole e palestre. E tra l'altro sono ancora centinaia e centinaia di persone bloccate dalle inondazioni che attendono di essere salvate. Sono stimate fermati provvisoriamente in decine i feriti e qualche disperso. Non ci sono ancora conferme ufficiali di morti, che però probabilmente ci saranno. L'effetto delle piogge torrenziali portate dal tifone tropicale Etau, che ha provocato l'ordine di evacuazione per circa 100.000 persone, altre 800.000 addirittura sono state avvisate di lasciare le proprie case. Danni ingenti anche a una località turistica molto nota anche a tutti i turisti italiani che vengono qua, quella dei templi di Nikko, dove è caduto in 24 ore addirittura mezzo metro di pioggia, e il fiume Kinugawa ha rotto gli argini e ha sommerso la cittadina di Gyozo, appunto nel Tochigi, e c'è anche qualche preoccupazione per quanto sta succedendo alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, perché l'acqua che passa per l'area della centrale, insomma, può essere contaminata prima di finire in mare. A voi la linea. Grazie, grazie a Stefano Carrer, corrispondente del Sole 24 Ore dal Giappone, per questi aggiornamenti e per questo gravissimo tifone che ha colpito il Giappone. Quando avremo ulteriori notizie ve le daremo. Nel frattempo, tra la serata di ieri e la notte, ci sono stati molti problemi, naturalmente di dimensioni inferiori, ma seppur gravi, a Catania e nella provincia di Catania. Saluto il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, Bianco. Buongiorno e un saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento. Qual è la situazione in città? Ma oggi è un'altra volta, c'è una giornata splendida, è tornato il sole e naturalmente, come dire, ci sono un po' di danni lasciati da questa vera e propria bomba d'acqua che si è battuta su tutta la Sicilia orientale. Pensate che nella sola città di Catania sono piovuti in 40 minuti oltre 60 mm d'acqua e in un'ora 80 mm d'acqua. Tenete conto poi che la città di Catania si trova ai piedi dell'Etna, una zona in cui c'è stata una cementificazione selvaggia negli ultimi 40 anni, e quindi la pioggia che una volta veniva assorbita dal territorio dell'Etna oggi scende come un fiume sulla città di Catania. E ci sono stati Avete già quantificato i danni, sindaco? Beh, guardi, abbiamo pensato all'emergenza. Ci sono dei quartieri come il villaggio Santa Maria Goretti che è sotto il livello dell'acqua, che ha subito dei danni per fortuna non paragonabili a quelli che c'erano nel passato. Non è stato allagato tutto il quartiere, ma intanto abbiamo operato con moltissime squadre anche di volontari, di vigili del fuoco, protezione civile, per ridurre i disagi. Non ci sono stati danni irreparabili al sistema produttivo, l'aeroporto ha continuato a operare e naturalmente appena avremo un'idea dei danni lo comunicheremo anche alla Regione, alla Protezione Civile Nazionale, e si valuterà l'impatto. Disagi anche a Siracusa, a Taormina, tutta la Sicilia orientale è stata purtroppo colpita da questa pioggia torrenziale, ma insomma oggi siamo già in condizione di aver ripreso pienamente tutte le attività in città. La ringrazio, grazie al sindaco di Catania Enzo Bianco, che ci ha fatto in qualche modo anche da cronista. Resta alta la polemica politica sulla puntata di Porta a Porta, nella quale sono stati ospitati i familiari di Vittorio Casamonica, capo dell'omonimo clan romano, il cui funerale fastoso ha fatto discutere nelle settimane scorse. Molto duro anche il presidente della commissione di vigilanza Rai, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, intervenuto questa mattina, ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino. In questo momento io dico che per me non è servizio pubblico, personalmente io giudico la trasmissione, una trasmissione in questo momento in quel modo non di servizio pubblico, e allora noi dobbiamo sempre ricordarci che anche Porta a Porta e il contratto di Vespa è pagato dai cittadini tramite il canone, è finanziato dai cittadini, e quindi se non afferisce più al servizio pubblico, alla missione di servizio pubblico, allora si può andare a lavorare da un'altra parte e fare la TV commerciale. Così dunque Fico, mentre parla anche il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli, dice una cosa è certa: di fronte a critiche e obiezioni la risposta non può essere la citazione dei dati Auditel, semmai la valutazione in questi casi è di opportunità. Un altro caso che ha fatto molto discutere, il caso di Giovanni Scattone, condannato per l'omicidio di Marta Russo e al quale era stato offerto un incarico di insegnamento in psicologia. Ha fatto sapere pochi istanti fa: se la coscienza mi dice di poter insegnare, la mancanza di serenità mi induce a rinunciare all'incarico, e dunque all'incarico rinuncia. Passiamo al cinema col Festival di Venezia con la nostra inviata Marta Cagnola. Cosa ci dici oggi, Marta? Beh, Simone, vi parlo dell'America Latina che oggi domina la mostra di Venezia, intanto con il secondo esordio in concorso, dopo quello dell'italiano Piero Messina, Lorenzo Vigas con Destedia, una storia a Caracas tra un ragazzo giovane, sbandato, e un uomo di mezza età alla ricerca di incontri maschili tra bisogno del padre, necessità di sopravvivere, scoperta dei desideri e omofobia. Fuori concorso invece il ruvidissimo Calle de la Amargura di Arturo Ripstein, un autore messicano celebrato qui per i suoi 50 anni di carriera. Cosa c'è a Calle de la Amargura? Tutto. Prostitute, accattoni, wrestler nani, truffatori, un omicidio. Decisamente un film non per tutti, ma con ottime cose. Per finire, le agenzie hanno appena battuto di applausi, ma io c'ero, ci sono stati anche fischi invece per Remember di Atom Egoyan. Tema delicatissimo, un 90enne smemorato che vuole farsi giustizia 70 anni dopo Auschwitz. Christopher Plummer all'altezza della storia, bravissimo, il film, ai noi, molto molto meno. Però da Venezia è tutto. Grazie Marta Cagnola. In chiusura di questa prima parte di Effetto Giorno torniamo a parlare di sport e torniamo a parlare di colori italiani, soprattutto nel basket, anche se c'è qualche spunto anche oggi dal tennis, Carlo Genta. No? Alla faccia di qualche spunto abbiamo due semifinaliste in un torneo del Grande Slam, si chiamano Vinci e Pennetta, e questo è un risultato storico per il tennis italiano, ma saranno tanti i palcoscenici su cui si dividerà questo weekend, enormi palcoscenici, perché c'è Lille per il basket che è la prossima tappa della nostra nazionale. Oggi si chiude il girone di Berlino contro la Serbia, ma siamo già qualificati dopo aver battuto la Germania. Adesso si tratta di capire dove arriveremo in classifica e quale sarà il nostro prossimo avversario, trasferendoci a Lille, e si gioca nel weekend in Francia la fase eliminatoria diretta. Come detto, New York per il tennis, c'è Madrid per la Vuelta, perché Aru ieri nella cronometro si è portato a 3 secondi soltanto dalla maglia rossa di leader della classifica, e tutti a questo punto lo danno come favorito. E poi alla fine ci sarà pure Milano per il derby, che si gioca domenica sera, Milan-Inter, stadio tutto esaurito. Però viene quasi voglia di dire, senza dimenticare ovviamente che c'è Misano, casa di Valentino Rossi, 100.000 persone attese con Valentino Rossi primo in classifica, dunque mi viene quasi voglia di dire che il derby di Milano sarà soltanto la chiusura, il sipario su un weekend meraviglioso. Grazie Carlo, tutto materiale anche questo per tutti i convocati, in onda a partire dalle 14 anche oggi da Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare ad Expo, dal quale stiamo trasmettendo anche Effetto Giorno. Adesso sentiamo che cosa succede sulle strade, poi torneremo a parlare dell'azione della Russia in Siria, parleremo di questa importantissima scoperta scientifica di un nuovo tipo di ominide, lo faremo con l'unico italiano che ha partecipato a queste ricerche. Traffico. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Seconda parte dunque di Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Un breve riassunto delle notizie per chi si sia messo in ascolto solo ora. C'è la Russia che dice non partecipiamo al conflitto ma invia uomini e navi in appoggio ad Assad in Siria. È un errore secondo il ministro degli esteri Gentiloni. La Danimarca ha ripristinato i collegamenti ferroviari con la Germania dopo il blocco per evitare l'afflusso di profughi, anche di questo torneremo a parlare tra un attimo. Sono stati scoperti in Sudafrica i resti di una nuova specie di ominide, mescolava caratteristiche simili alle nostre con altre più primitive. Ci sarebbero 3 carabinieri sotto inchiesa nell'indagine bis sulla morte di Stefano Cucchi. Più avanti ascolteremo l'avvocato della famiglia Cucchi. E poi ci sono le piogge torrenziali in Giappone, inondazioni e frane, sono 100.000 gli sfollati. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, ciao Alberto, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Vogliamo parlare con te evidentemente di questa azione della Russia in Siria. I russi dicono non partecipiamo al conflitto, Hezbollah per conto suo conferma, dice la Russia ha inviato solamente degli strateghi, ma fatto sta che è un'azione piuttosto forte quella di Mosca. Io credo che Mosca voglia segnalare due cose con l'intervento in Siria. La prima, che per il momento non intende scaricare Bashar Assad. La seconda è un messaggio anche diplomatico, cioè chiede all'Occidente, agli Stati Uniti in particolare, di mettersi un tavolo per discutere quello che sarà la sorte di Damasco, del regime di Bashar Assad e della Siria e della Siria intera. Ricordiamoci che Putin qualche giorno fa aveva proposto un'alleanza internazionale contro il jihadismo, ma era stato praticamente ignorato. Questa dunque, questi dunque gli obiettivi della Russia, è però un'azione, Alberto, che sembra un po' mettere in imbarazzo l'Occidente, che non sa esattamente come comportarsi nella situazione siriana, perché da un lato c'è la volontà di combattere l'ISIS, dall'altra parte c'è la volontà di non aiutare troppo il regime illiberale di Assad. L'Occidente sta vivendo una sorta di sdoppiamento psicanalitico della personalità, perché da una parte non vuole combattere il califfato, dall'altra parte però non vuole aiutare Assad, che è quello che combatte il califfato sul terreno. Come si dice anche molto banalmente, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. E oltretutto gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna portano una grande responsabilità di quello che è accaduto in Siria. Faccio notare innanzitutto una cosa, en passant, cioè che il califfato non nasce in Siria sotto il regime di Damasco, ma nasce in Iraq sotto un governo comunque alleato degli Stati Uniti e sotto la presenza americana, ancora militare fino a qualche anno fa. Quindi c'è stato anche da parte degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna un sostegno agli alleati del Golfo e della Turchia perché mandassero jihadisti e combattenti in Siria per buttare giù Saddam Hussein, per buttare giù Bashar Assad come Saddam Hussein. Soltanto che dopo qualche periodo di tempo questi calcoli si sono rivelati totalmente sbagliati. Adesso però siamo un bivio, è evidente. Se cade il regime di Bashar Assad, milioni di siriani scappano dalla Siria e diventeranno dei profughi. Quindi in qualche modo puntellare Assad in questo momento significa scegliere il minore dei mali, anche se sappiamo che è un feroce dittatore. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per la sua analisi che ci ha portato sul tema dei profughi, tema sul quale vogliamo rimanere ancora adesso. La notizia di queste ore è la vicenda che riguarda la Danimarca, che ieri ha bloccato i treni in arrivo dalla Germania e che portavano anche dei profughi probabilmente diretti tra l'altro in Svezia, e questa mattina li ha sbloccati. Una decisione, quella del blocco, che è stata definita questa mattina sorprendente dal ministro degli esteri Gentiloni. Saluto Alfredo Tesio, che è un giornalista corrispondente dall'Italia per Politiken, che è un giornale appunto danese e che è un commentatore anche di queste vicende. Alfredo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, ragazzi. A cosa dobbiamo queste decisioni danesi e a cosa dobbiamo questo cambio improvviso, per così dire, di strategia, no? Da bloccare i treni il giorno prima e sbloccarli il giorno dopo. Il giorno prima è una decisione in linea con la linea, scusate parole, del governo, che è un governo molto strano in Danimarca, un governo di destra in cui il partito Venstre Radicale è al governo, però essendo un partito di minoranza, il partito popolare danese ha la maggioranza ma non è al governo. Questa è una situazione paradossale. Un partito di destra quindi fa assolutamente quello che il Danske Folkeparti, il partito popolare, vuole, e quindi aveva chiuso ieri, come abbiamo detto, treni e autostrada. Poi una veloce analisi di opinioni ha convinto il primo ministro a liberalizzare la cosa. Nel frattempo però la polizia, il capo della polizia, autonomamente aveva preso delle decisioni, a prescindere da quello che il governo aveva detto, con il risultato di liberalizzare e aprire l'autostrada, far passare i treni, ma non solo questo, molti danesi con le loro macchine private avevano preso i profughi e li stavano portando in Svezia, trovando là altri ostacoli. Scene che tra l'altro abbiamo visto anche in Germania e nella stessa Ungheria. Allora Alfredo, noi abbiamo un collegamento pessimo, ti sentivo abbastanza male, io posso solo immaginare come ti sentissero gli ascoltatori in radio. Proviamo a recuperarti per un ultimo commento, ti chiederei un minuto e per capire quali possono essere le prospettive adesso, come agirà la Danimarca nei prossimi mesi, però abbiamo prima una pausa e come sempre lo spazio della borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci ancora con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Un breve riassunto per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solo ora. Mosca invia mezzi blindati e granate alla Siria, ma non partecipa al conflitto, dice, conferma però fattivamente l'appoggio ad Assad contro l'ISIS. Non è il momento di iniziative singole, lo dice la Commissione Europea in una dichiarazione di pochi istanti fa. La Danimarca, che ha ripristinato i collegamenti ferroviari con la Germania dopo il blocco per evitare l'afflusso di profughi. L'importante scoperta scientifica di oggi sono i resti di una nuova specie di ominide che mescolava caratteristiche simili alle nostre con altre più primitive. Sarebbero tre carabinieri sotto inchiesta nell'indagine bis sulla morte di Stefano Cucchi e tra poco parleremo con l'avvocato della famiglia Cucchi. Intanto la borsa. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Siamo di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il nostro punto a metà giornata di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Avevamo lasciato in sospeso Alfredo Tesio, corrispondente dall'Italia per Politiken, che è un giornale danese. Alfredo, brevemente, secondo te quali possono essere le prossime mosse del governo danese in merito alla questione dei profughi? Le prossime mosse sono di adeguarsi come ha fatto la Merkel a suo tempo, perché in poche ore il convincimento della popolarità elettorale è cambiata. Non sono diventati più solidari o più amanti del prossimo, hanno fatto un calcolo molto, molto pratico. Questa è la situazione, penso io. Non dimentichiamo che il governo è un governo di destra, è appoggiato da un governo, da un partito xenofobo, quindi stanno regolando in questo modo. E hanno in questa settimana, per dare dei dati, hanno accolto 3.200 profughi e solo 668, dati di mezz'ora fa, hanno chiesto asilo politico. Tutti gli altri vorrebbero andare in Svezia. E il problema adesso diventa la Svezia. Grazie. Prego. Alfredo, io ti ringrazio per questi chiarimenti e aggiornamenti, magari torneremo ad interpellarti nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Veniamo ad un'importante scoperta scientifica, come si diceva nei titoli. In Africa è stato scoperto un nuovo antenato dell'uomo, una specie di ominide finora sconosciuta e dalle caratteristiche nuove. Abbiamo in linea con noi Damiano Marchi, chi è un antropologo del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa ed è l'unico italiano che ha partecipato al team che ha fatto le ricerche su questo nuovo tipo di ominide. Professor Marchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Quali sono le caratteristiche di questo ominide che ci fa dire che è una scoperta così importante? Beh, la caratteristica principale è che è costituito da praticamente tutte le ossa. Abbiamo i reperti fossili di tutte le parti di questa nuova specie, che in paleoantropologia è una cosa praticamente unica e che ci ha permesso per la prima volta di descrivere accuratamente le caratteristiche anatomiche di questa nuova specie e quindi di descriverne la morfologia e il comportamento essenzialmente. E senta, abbiamo letto che si tratta di un ominide che presenta delle caratteristiche simili alle nostre e alcune ovviamente molto più primitive. Sì, diciamo che per essere inserito all'interno del nostro genere Homo, che noi siamo Homo sapiens, questo è Homo naledi, ha bisogno di avere delle caratteristiche che sono tipiche di tutte le specie all'interno di questo Homo, di questo genere, e che queste sono per esempio la capacità di camminare su due piedi, di avere uno scheletro postcraniale adatto a camminare e probabilmente anche a correre. E queste sono caratteristiche che sono presenti in questa nuova specie. Anche il cranio ha delle caratteristiche nella parte superiore molto simili a Homo erectus, per esempio, e anche a Homo sapiens, però ha delle caratteristiche uniche in quanto ha un cervello, una testa molto piccola, e questo è un carattere primitivo. E inoltre ha anche caratteristiche nella mano e nel piede che sembrano indicare capacità di arrampicarsi sugli alberi come le scimmie. Ha le dita curve. E quindi praticamente era un esemplare della nostra specie, un rappresentante del nostro genere, Homo, però con caratteristiche primitive che lo rendevano adatto anche ad arrampicarsi sugli alberi. Questa è una cosa unica e non si sapeva fino ad ora che potesse esistere una specie così, è proprio la prima volta che si trova. La ringrazio, grazie a Damiano Marchi, antropologo del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e unico componente italiano del team che ha fatto questa scoperta, ed evidentemente complimenti. Adesso noi ritorniamo sulla vicenda dei profughi e torniamo a collegarci con Gigi Donelli, nostro inviato a Košice, siamo nei pressi del confine tra Ucraina e Slovacchia. Radio 24, ve lo ricordo, sta compiendo un viaggio ai confini dell'Europa. Sabato alle 8.15 andrà in onda il nostro reportage dalla Bulgaria, mentre quello sull'Ungheria lo potete recuperare sul nostro sito www.radio24.it. Recuperata la linea con Gigi Donelli, gli chiediamo, insomma, Gigi, quello che vorremmo capire è da dove vengono e insomma che origine hanno i profughi che transitano da quel confine. Gigi. Sì, questo è un confine multiplo in realtà. Io adesso sono effettivamente in Slovacchia, ma bisogna considerare che questo fronte ucraino è quello delle quattro frontiere, perché da nord a sud sono la Polonia, sono la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania, il tutto raccolto in circa 100 chilometri. Di fatto è facile ricordare come l'Unione Sovietica disegnasse anche i confini degli stati satelliti in modo da poter intervenire in ciascuno di questi in maniera autonoma. Ma questa è la storia. L'attualità racconta che oggi questa frontiera, che a noi sembra di fatto così lontano e tutto sommato anche tranquilla, e per certi versi lo è anche il luogo dove nel corso degli ultimi 18 mesi sono passati 150.000 ucraini, e lo hanno fatto naturalmente sia per ragioni economiche che diciamo legate alla profonda crisi del paese, sia per questa ondata di internal displaced person, cioè quelli che noi definiamo gli sfollati che dall'est dell'Ucraina sono stati spinti verso l'ovest dai combattimenti, dalla guerra, e che naturalmente dall'ovest cercano di compiere a loro volta l'ultimo passo per certi versi, che è quello che va appunto verso la Polonia, prima destinazione, ma anche verso l'Ungheria, la Slovacchia e persino, e dico persino per le condizioni economiche, verso la Romania. Gigi, e queste persone hanno intenzione di venire nell'Europa occidentale, o il loro viaggio tendenzialmente si ferma là con l'obiettivo poi di ritornare in Ucraina quando la situazione si sarà tranquillizzata? Allora, per molti ucraini l'obiettivo è esattamente quello che hai descritto, perché esiste innanzitutto un forte diciamo vantaggio potenziale che è offerto soprattutto dalla Polonia. La Polonia fa parte di quei paesi come la Repubblica Ceca dove la crisi di fatto ha coinciso comunque con una fase di crescita naturalmente relativa nel mondo orientale, ma insomma Polonia e Repubblica Ceca in particolare in crescita, e quindi per la popolazione ucraina, per i richiedenti asilo, e grazie anche alle nuove leggi che la Polonia si è data a partire dal 2014, diventa più facile accedere per ragioni economiche. Naturalmente in primo luogo ci sono le badanti, esattamente come in Italia, anche in Polonia e in Slovacchia, in Ungheria, le ucraine svolgono questi ruoli diciamo all'interno della famiglia. E poi un'altra cosa che si dice in particolare lungo queste frontiere, che ormai non si costruisce più una casa, un palazzo, senza gli operai ucraini, quindi è facile capire insomma dove sono orientati. Bene Gigi, io ti ringrazio anche per questo aggiornamento e per questo racconti che continueremo a sentire appunto qua a Radio 24. Un ultimo aggiornamento prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade: sono le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Come vi dicevamo, la notizia di giornata è questo aiuto partito appunto dalla Russia per il regime di Bashar al-Assad per combattere l'ISIS. Dice Lavrov: la Russia continuerà ad aiutare il governo di Damasco a equipaggiare l'esercito siriano con tutto ciò che è necessario per non permettere un altro scenario libico o che si ripetano altri tristi avvenimenti che hanno avuto luogo in questa regione. Così il ministro degli esteri russo Lavrov. Traffico.